qualcuno è in grado di ascoltare questa piccola stazione, cambio cambio. Prego, prego. Attenzione qua, Nord Sardegna, se copiate questa piccola stazione radio, cambio. Tutti a nanna, ti ascoltando, tutti a nanna, ti ascoltando, eh? Avanti, Nord Sardegna, cambia, avrei sentito benissimo, di sì. Scappa qua Alex con una prova di radiolina che sto facendo, non lo so come ti sto arrivando, non so manco dove stai, da dove stai trasferendo, da dove stai tornando. Vabbè, io mi trovo qua vicino alle, come si chiama questa zona, vicino al ponte, dai, vicino al ponte vecchio. Ah, bravo, dai, buona radio, buon segnale, buon tutto, dai. Perfetta la radio, facendo. Ero tutto Roger e ti sta arrivando lì, ma tu dove ti trovi però? Io sono qua all'ippodromo. L'ippodromo, quindi tutt'altra parte, dai, allora tutto Roger, ok. Mi pare strano che lui sia, infatti non ho raggiamenti, nessuno rifondia. No, da parte tutta carichissima, no. Magari stanno mangiando, ho capito. Ma no, ce lo stanno mangiando. Vaga, va a fare una buona radio la tua, mi stai arrivando pieno qua. Paroci, capa di noce. Non è attivo come? Falchetto. Ok, Falchetto, il mio è Zebra, ma tutti mi conoscono come Alex. Papa Alex, va bene, già sta arrivando bene. Zona di modulazione. Mi soffrono di questa specie di mercato che ancora non finiscono mai, sto salendo qua in via vicino lì con la via. Cappa di noce. Bene Alex, dai, tutto alle migliori, buon trabacco, buon tutto se stai trabacchiando. Ci ascoltiamo alle migliori, ciao ciao. Non mi preoccupare, andrà bene, comunque il tuo orologio, il controllo di qua, tutta la radio, bene, la tua, sempre Santiago 9, Radio 5, dai, ok, te la facilita. Grazie. regista, se non vuole quella, non vuole l'uovo, è strappa tutto, c'è una strada, c'è manuale, il cartuccio originale, è un bel apparecchio, bello, se lo vedi, ma su internet, non lo vedi, c'ha canali da 800, ti mattano, 800 sono tanti, c'è frequenzimetro, oppure canalizzato. Diciamo un apparecchio un po' complicato da usare, questo non è semplice perché deve scaldare tante cose. Io adesso mi sto prendendo una notte, però conoscevo anche la prima, perché la domanda non guardo a casa di un amico, la diciamo, e un po' mi adatto, però è molto difficile, oddio, ma è difficile comunque, non è neanche facile da usare. Per esempio i vicini con questa radio qua, è una cosa allucinante, è una cosa ma non è perché la radio sia toccata o cosa, è tipo la radio, c'è il microfono che spinge, e purtroppo chiama l'acchino, lo bisogna vedere. Io per esempio ho attaccato l'altra volta, nel 2001 e non li sentivo, manca a balla, perché al filtro c'è tutto, guarda che è l'ultimo baracchino nel 2001. Vai, adesso vedi, sta cambiando la modulazione che sono vicino a casa. Sta cambiando, è più compresso, non se ne comprende più niente. Però quando ero là era chiara la modulazione. Tu lontano sei e più bene si sente, lo sai. Forse io sono un zabì, o magari un zabì. E forse magari, aspetta, forse magari sono troppo attaccato, guarda un po' che sono attaccato. Anche il microfono che conta molto, è un uscito al microfono questo. Praticamente si presente un microfono a cantanti, più o meno, Ho capito una cosa del genere. Sì, comunque adesso ti ascolto meglio, cos'è abbassato? Cosa hai abbassato? Comunque ti ascolto meglio, quanti assurdi. No, niente, guarda così senza processore mi sentirei bene, chiaro, sicuramente. Confermi. Guarda, se lo vedi, la tua voce. Ecco che. Perché praticamente più vicino sei e più potenza dai e di meno l'ascolti. Non ne comprende niente della voce. Però se la abbassi, tanto noi siamo vicino, tra cucemmo. E così andava bene. Però da lontano, se capita magari parlare con qualcuno dalla Spagna o chissà da lì, parli con quella roba lì, come dicono i quello sì, no, vabbè. Ma se è normale, capito, senza processore. Normale. La modulazione è normale. Però se attacchi il processore, allora la musica cambia, capito? Se ti vuoi comprare una partita del genere, ti vado l'ultimo alimentatore, tipo quello che ho io, anche se è piccolo, ma per andare bene un 50 ampere, se vuoi uscire così l'MC60 è questo tipo di apparecchio. Ci vorranno, se o no, quello su originale, vabbè, linea completa non ti bastano 1000-1200 euro. Vai. No, dico, non io, a me, alla mia camera, l'accordatore, il TS50, ma che se, l'accordatore è 50 ampere, allora, l'accordatore, la colonnina, l'accordatore, la colonnina e l'alimentatore. Sono circa 1.000-1.200 euro di valore. Per lui è 25 adesso, questo qua. 50 per... E volevo troppo, così. Ma però che ti compri lo switching, qui c'è adesso da 40 anche. Però è sempre switching, non è a, a trasformatore. No, forse lo devi vedere tu. Lo devi vedere tu. Devi prendere la decisione tu. Questo ti posso garantire che hai un'ottima radio. E vai alla grande, non hai né problemi di niente, né di splatter, né di nulla. Comunque stasera quando io mi sono spostato io ti sentivo lo stesso, se proprio lo vuoi sapere, perciò che questo qua prende i colpi. Poi se attivo il segnale con cui sto parlando non ti sento più. C'è Mario, Mario, ci sei? Yeah. con zafferano e funghi secchi. Ricordiamo da molti di noi, bilevo, te lo vemmo. Ehi, ehi. Ti faccio vedere come si fa. Si oda. Un pezzo di burro. Un dado. Cavagara, cavagara. La mia però era un personaggio, era un dado. La pera ci vuole solo i funghi secchi, i porcini però e di quelli buoni. Si possono prendere anche di quelli congelati, ma costano qualcosa in più. E ce n'è di da mangiare. A me piace un bel. E i funghi non è che mi attirano tanto, però fatto così mi piace. E mi è piaciuta anche la pizza che mi ha fatto il fratello di Savio, che si chiama Maremonti. Mi è piaciuta un bel. Calamari e Antuna. L'Antuna mi piace pure a me. Ma questo contrasto che c'è è buono. Sì, già l'avevi detto che ti è piaciuta quella pizza. Questo mi fa di burro, credo di Savio. Perché la sera volevo prendere frutti di mare, invece non ce n'erano. E mi ha consigliato questa pizza qua, la cognata. Ma mi ha dato un buon consiglio, era buona. Prego. Avanti. Buonasera. Buonasera, Falchetta, anche a te. Come sta va? Sta va bene, tra bene. Allora, chi c'è in ruota? Io, Natalaus, Pierpaolo e Antonio. Siamo a Roggero. Salutone a Natalino, salutone a te Gianni, salutone a Pierpaolo, salutone a Antonio. Carissimo Falchetto! Carissimo, e allora, tutto a posto? Ciao Falchetto! Ah Pierpaolo, ben entrato, ben tutto, ben sentito, voglio dire, magari direi già frequenza. E niente, tutto Roger? Diciamo di sì. Andrà bene bene. Ma tu non sei uscito a far che stasera? Beh, io a fare la commissione, sono uscito stasera e basta. Ma per pescare, andate scelta? No, non sono andato. Ah, se c'era un mare. Fantastico, far che. Kappa, è peccato, eh. Ci volevo andare questa mattina, boh. E invece poi cambiamento dei programmi e non sono andato. Sarà per la prossima, cosa dici? Sì, bisogna mancherà l'occasione già di andarci, sì, se Dio vuole, capito, già si va. E che adesso ci sono i polponi grossi. Infatti, quello è, che adesso ci sono i polponi, ma non capita, non passerà molto, io penso che la prossima settimana, siamo a luglio. Infatti. Io avevo bisogno di una di polpessa 5 kg con la carne. Che aspetta, anche mio compare con la carne va preso, aveva preso anche il grongo con la carne allucinante. L'ho pescato anche il grongo con la carne, ma non era grosso, era tipo anguilla così, non un grongo. Sì, piccolino infatti, è tipo la guida. Allora si è attaccato lo stesso, o era famiglia che il gronco. Il gronco si goia tutto. Non è mai preso a grumi a pescare. Con la sardina intera nel ramo. E scotto da giubilato io. Sì, mio compare, muretti, grumi, niente. L'ho fatta poco la ultima, dice Maria Giuseppe. Una vita di camorena ma grossa, mi già. È stata alta 1,20 m, ma era enorme. Si è messa a voce. Niente, sono dovuto correre io a aiutarlo perché la rete le stava spezzando le dita. La torretta. Stavo in cui io, la morena, sai cosa gli ha fatto? L'ha buttato dagli scuri e l'ha fatto tutto sciunchiare, ma l'ha ripigliata. Cappa. La credo bene già, bella bella. Poi abbiamo preso un globo grosso una notte, sempre lì alla gentile, ma bello grosso. Cazzo, uno spettacolo da vedere questo globo, bellissimo. E già abbiamo preso bulbi e già si pesca lì, bene bene. Ah, io parcheggio il giorno di me pure in salata. Chi lo vuole con Gianni e tutti lo mangiamo, quando è che andiamo a pigliare? Siamo a Zemmo, Natale, non c'è problema, ci mettiamo d'accordo, andiamo. La muta ci vuole, io non ne ho più, l'ho venduto tutto, mi è rimasto solo il pugnale e le pinne, boh, la maschera. La muta ci vuole allora, ci vuole la muta. Pagato, anche a pigliare Rizzo, mangi una gana. Infatti, io con tuo ragazzo un video, una muta sai. Tu che c'è la muta, sai cosa possiamo fare? Ti porto io in un posto di Luigi, o andiamo a Castel Sardo, tanto è acqua bassa pure, quindi un bel. Castel Sardo oppure a Portoferro, è tutto pieno. Ci portiamo il vino, un pezzo di pane e via. Il vino non c'è problema. E se mangiamo un Rizzo? E da voi smaltiamo lì. Dico la tarina. Oh yeah! Mi piace il riccio, fa il che? No, non lo mangio. Mi piace prendere, ma non lo mangio. Peccato. Un poco sono buoni. Pure nella pizza sono buoni. E a chi li ha passato asciutta sono male. Allora, me ne ho preso una volta tre barattoli per non far... per non far la scondita. E ho fatto gli spaghetti a ricci, erano arancioni proprio, belli conditi, ma che sapore buono. Lo so, chi piace, già sono buoni, no, io non li mangio. Ma ti fanno schifo, ti fanno senso? No, proprio non mi piacciono. Beh, il riccio c'ha il tipico sapore del mare, quello lì che ti attira, beh. A chi non piace, non piace. Come le ostriche, se non si piace, è inutile che le mangi. Infatti. No, non vuoi che le mangio. Varie cose le mangio. Ad esempio, un pesce non le mangio. Il pesce classico, diciamo, non lo mangio. Mangio un po' i programmi di Carabossi, ma Rizzo e Carabossi non mi piace. Sei siriato. Allora, perché sei proprio siriato, come te e me? E vabbè, che non piace la roba buona, Pierpa avanti. Pierpaolo si è astenuto. È a dieta. Sa che cosa? È la roba da mangiare. Ma niente il codice del set. Mi state facendo la diavolo del dottore, ma io non ascolto queste cose. Chi è che sta mangiando il dessert? Io! Ah, credevo Pierpaolo. La mazza! Tu però non mi ha risposto mia, vedete se ci avevi il boxer per la prima notte di combattimento. Guarda, questo si sta mangiando, sono sicuro che altro si sta mangiando la crema al cioccolato, così è. La mazza doppia! Io c'ho fame. Perché Antonio mangiando, mi ha dati qui. Beh. Ma adesso non è che ti sfamano, altro, è questione di ingordigia. È la Carmagna che tu bizzino. Cazzo. Guarda che lo può fare. Guarda, Antonio, tutti dimmi. E domani comprati i boxer per la prima volta di combattimento. Senti chi parla. Stai rullando, no? Cappa. Cappa ingordigia a me. Anch'io sono ingordo, Antonio. Non lo nego. A me piacciono i dolci, queste cose qua. Ma non è che puoi dire che ti ho detto se c'ho fame mangio, ma chi se non ti sfamano? È perché ti piace. È perché mi piace, ma io non ho mangiato anche la pizza. Quindi è fatto un play per completare la cornice, là. Ci vuole anche il dessert, naturalmente. Ma che vuoi, ti sei mangiato? Oh, quello l'ho lasciato stare. Ah, così è, cazzo il tempo, bro. Aspetta, quello ci metto un pochettino di cioccolato sopra, dal dessert, me lo mangio dopo. Cioccolato sopra, la panna sopra. Ehi, già mangio anche no, il budino budino proprio. Quello che c'è il gran calabro. Lo dico, quello che stai mangiando tu non è quello con il cioccolato sotto. No, la panna sotto, il cioccolato è sotto. Un attimo di bianco. Giappa. No, quello che sto mandando io è quello che... quello che è cioccolato, il cioccolato sotto. Solo il cioccolato, senza panna. Quella mica! Mamma mia, adesso vado a mangiare. Non ne parlate, eh? Non ho capito. Fai bene, fai caso contrario fai bene a zappartene. Ma crescendo sta quest'erba? Ehi, non voglio passare la percettrice. Che sono rose fioriranno. Adesso lo sto lasciando serenare. Ne usi ne rimani, questa era manco età, sicuramente è curiosa, ma cosa ti sarà pigliato, amico? Basta che lo si tracchia, così. Siamo 70, mi ha fatto soffrire lei a me, io devo far soffrire a lei. Poi vedrai che diventa tutto un fuego. Natali, ma così no, non cucchi mai, Vogu, vogu, vogu, vogu, vati saniru, vogu. E alla tizio vera, tizio lo vogu io. Falchetto. Falchetto si è drumito. Vati per farlo versare un po' di rosso. Me ne hai tolto la parola in bocca, lì. Alla faccia di chi non vuole. Una è cagosa, Portaci due, Antu. E fame. Ehi, Gianisco. Gianni è andato in cucina, mollo tutto. Tocca rimane da riburrone, Gianni. Gianni! Accettare la dispensa, Gianni. Era bravo. Un caffè crisi, no? Ha mollato il microfonetto già alla ricosina, sei qua! Voi dite là, Rieto, a me mi pare faccio di tromba. Se deve essere venuto la crisi. Faccio il saputo e faccio di tromba. Hola, hola. Cos'è, in cucina si è andato? No, stavo cambiando l'apparecchio perché se no Marco devo spegnere gli alimentatori che deve dormire e lo fastidio. Ma è paura di sogarci lui in chibie. Beh, lui dorme sempre con me. Si addormenta con me e poi lo porto nel suo letto, se no si dorme. Taci bene. Ti senti, lo sono in cuffia. Amagavo. Quindi ho dovuto cambiare l'apparecchio, almeno questo funziona a 220, rimane solo questo qui acceso e tutte le luci monumentali, come le chiama mia moglie, si spengono. Non vuoi proprio lo variato, bambina. No, ma lei dice, ma poi non le piace quello sì. Però adesso che mi dovrò fare il mobile scuro. Pure. Beh, cosa pongo? La cameretta nuova con la cosa bianca. La cameretta è color legno scuro. Quindi devo fare anche la storia, l'ambaradana. Ma fate niente. No, non lo vuole, non mi piace con me. Perché non vuole vedere la lenzuola sotto per coprire gli apparecchi. Dobbiamo fare studiare. Perché chiude non si vede più nulla. Finta che ti sei ammazzato intanto, Isa. Finta che ti sei ammazzato già. E vabbè, ci voleva la camera da letto nuovo perché. Diciamo che si sono sgangherate le serrature dei cosi, delle porte, delle portiere dell'armadio, aprire un casino, un livello e dopo si è rotto sotto, quindi già ci vuole. Ehi, dimmi Gianni, non sai minimamente che già te lo faccio vedere io, dai, non tocca nulla, tu. Ok. Da qui dove ci siamo trasferiti, siamo in questo canale dove pure. No, ragazzi, abbiamo preso questa decisione. Appaga, noi ci troviamo qui, poi vedi tu, dove vuoi, vai, non c'è problema. Noi siamo qua. Appaga. E allora, K2, stai facendo questa... questo collegamento, con questo programma. Niente, sei tutto. Una volta imparato lo fai anche tu come tutti gli altri, non è che ci voglia nemmeno la laurea. Io l'ho vista l'altro come lo usa, ho visto che lui ha imparato bene. Pierpaolo è qua con noi, avanti Vera 1. Ciao Papa, buonasera KP2. C'era il ghiaccio, cazzo, non ha spazzato due o tre volte, sono caduto a sedere a terra davanti a te. E c'era il ghiaccio sotto la pestata, la neve si era formata il ghiaccio dal freddo. Poi è bello che continuava a nevicare, non smetteva. Ho ripreso. Pensavo che fossi scappato. Avanti, qui c'è Capri 2. Aia. Buonasera Capri 2, da Forchetto, cambio. Piccolino, sento già. Ha detto se è migliorato con qualcosa. Perché vi sente meglio? Canale. Poi c'è il canale che da meno stazionario. Lo stesso. c'avevi tutta questa carriera. Seguita per 3 mesi, poi non ce l'ho fatta più, troppo rigida. No, sto, diciamo, mangiando regolato, però mangio mezzo panino soltanto, la mollica, il pesce oppure la fettina, un po' di salata a pranzo, e il primo non le mangio. Riprendo io, già, dai, faccio come detti che domani vado a lavorare. Salutoni a te, Pierpaolo, Gianni Capri 2, Antonio e eventuali ascoltori. QRT da parte mia, tutte le migliori, ciao ciao. Ciao, ciao Falke, buonanotte, avanti Pierpaolo. Ciao Falke, ciao, ci ascoltiamo tutto domani. Buon QRT e buon trabacco per domani, ciao ciao, avanti Antonio. Sì, ciao Falke, buon lavoro, buon tutto, alle prossime. Ridurre i cibi non vuol dire privarsene, vuol dire che il nostro fisico ha bisogno di tutte le proteine, calorie, eccetera, eccetera. E tu quando mangi così, mangi poco ma di tutto. E dai al nostro fisico quello che gli occorre. Salutarvi, me ne vado anche io, tutto quant'annata che sono stanco morto. saluto a tutti, buon trabocco per domani. Cosa dire, se non auguro una buona notte. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Gianni, un giorno, ce la riascoltiamo tutto domani, dai. E anche io chiudo, avanti capri due. Ciao, ciao a tutti. Buonanotte a tutti, ciao, ciao.